Yes, people, questo è Jolly Roger. Yes people, questo è Jolly Roger, l'Original Lab che va in onda tutti i venerdì dalle 17 alle 18 dal Brancaleone. Siamo tornati in compagnia delle nostre amiche del GAS, che salutiamo e ci fanno compagnia a quest'ora della diretta. Salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche del Branca e iniziamo la puntata con il primo pezzo di Jolly Roger. Un pezzo fresh. Salmo. Oh, baby, lady, ciao, ciao. Bubble. Oh, io ci ho consumato le suole dietro queste qui di cui non so neanche il nome. Io, oh, oh, oh, c'ho tu me anche se non dovevo. Ma me ne sto andando. Però più veloce di mi lascio le scale. Io, stai con i fratelli miei. Sempre in corner, io ma dentro uno squalo. Ma se lo ignoro come non ci fosse. Fumo, fumo già fino alla tosse. Vedo troppe cose che per me sono nostre. Sei un po' mia, ma un po' mi fa star dentro la bubble. Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, hello. Sai che lievito i posti in cui ci sono già stato. Ma tu mi ci riporti, quindi bella ciao, bye, hello. Dalla porta da una vita che ti bussa. A furia di metterci una pietra sopra mi son fatto la villa di lusso. Ancora non dimentico, soffoco l'amore quando muore lo rivendico. Sarà che sono perfido, guarda in faccia la realtà, non vedi sono identico. Le mi ama perché sono il boss, o perché nella figa c'è un boss. Strisciano la carta, mi succhiano il conto e banca, stanno in fila, manco fossero le poste. Occhi come spilli, tra nomi di fumo sto in chilli. Di stile ne ho a mille, se balli con quel culo tiro schiaffi come Willy. Sei un po' mia, ma un po' mi fa star dentro la bubble. Oh baby, lady, ciao ciao, bye bye, hello. Sai che lievito i posti in cui ci sono già stato. Ma tu mi ti riparti, quindi bella ciao, bye, hello. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, questo è Jolly Roger, venerdì 30 settembre, siamo in diretta dal Brancaleone, iniziamo questa terza o quarta puntata della seconda stagione di Jolly Roger. Con molto piacere abbiamo ripreso quella che è stata una delle attività più fresh e più interessanti dell'anno passato e anche dei prossimi anni. E ora partiamo col primo pezzo scelto da Luca e poi direttamente passo il mic a lui. para para para para para para. Basta di Dananai, che bomba. I carabinieri tutto a posto, tranne che qui. Belli grassi, Benny Benassi, soddisfatti sto venerdì. Puoi venire qui da me, citofona 3, 2, 3. Acido come la dance, quella del 2003. Sex tape, video Blu-ray, io lei, fuori da qui. Berlin, Colin, chiama quando sei free. Para para pa pa para para para pa pa para bu a. Para para pa pa para para para pa pa basta. Cerco casa, tabula rasa, l'ho spaccata, sono Bruce Lee. Cresta in testa come i moicani, faccia pulita, chirichetti. Puoi venire qui da me, citofona 3, 2, 3. Acido come la dance, quella del 2003. Sex tape, video Blu-ray, io lei, fuori da qui. Berlin, Colin, chiama quando sei free. Para para pa pa para para para pa pa para. Para para pa pa para para para pa pa para. Para para pa pa para para para pa pa para. Para para pa pa para para para pa pa basta. Siamo tornati qui in diretta. Come detto prima, questo è il momento del nostro amico Luca e passo subito il microfono a lui. Buongiorno o buonasera a tutti, sono Luca. Oggi volevo raccontarvi del perché questa settimana per 4 giorni non sono andato a scuola. Lunedì non sono andato solo lunedì perché, come la scorsa settimana, alcuni miei compagni mi davano fastidio durante la lezione di Airsoft. Mi tiravano le palline di carta e poi lo punzecchiavano con la penna. Io ho detto di smettere fino a che non è intervenuto il prof di Airsoft. Hanno continuato così, mamma ha mandato né martedì e né mercoledì, mi sono sentito male, non sono andato neanche a scuola ieri e oggi, ma ci torno lunedì. Mamma è andata a parlare ieri con la preside e ha detto: non c'è problema signora, proveremo a fare dei provvedimenti su come si comportano gli altri con suo figlio. Però a scuola ci sono tante belle ragazze e uno mi ha mandato i bacetti e amo comunque Michela. Perfetto, e questa è una dichiarazione di amore dopo tanta sofferenza settimanale. E ora partiamo con l'altro pezzo che ha scelto il nostro amico Luca e al quale lo dedichiamo de cuore. E va così. E siamo solo all'inizio della puntata. Piano piano. Pop pop is showtime. Showtime. Showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know downtown. Oh, they don't know downtown. I bet they know as soon as we walk in. Show up. I'm wearing Cuban links. Yeah. Designer mix. Yeah. Inglewood's finest shoes. Woo-woo. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to get the color red, the blues. Woo, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up. this. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. What y'all trying to do? Portiamo un po' di sole in quella che è ormai diventato il grigio autunno di Roma, fra vento, piove non piove, inizia ufficialmente questo nuovo weekend. Detto questo, ripasso il mic al nostro amico Luca, che ci racconterà alcune cosette molto interessanti. Ieri ho conosciuto il mio nuovo operatore Andrea Fiore, che fa parte anche lui della cooperativa Ida Prisma. Del martedì gli ho raccontato delle mie passioni, ci siamo visti con Elena e Serene e tutti gli altri al bowling, ma non abbiamo potuto giocare perché Elena ha dovuto andare a accompagnare Serene. Poi abbiamo visto che alla Conad, partecipando al concorso della Monster Energy, puoi vincere una chitarra elettrica. Vai sul sito Monster Energy, iscriviti e vedi se hai vinto oppure no. E poi che altro hai fatto? Dici un po' com'è andata sta settimana, oltre alla scuola e il martedì, insomma, che sembra abbastanza interessante, oltre al solito venerdì di Jolly Roger, diciamolo. Ho sentito parecchi temporali perché adesso, come sappiamo tutti, sta finendo l'estate, adesso sta per cominciare l'autunno e tutto il freddo. Ci sono stati molti temporali sabato scorso e ieri sera, che molti fulmini, ecco, è sempre la natura e niente. Spaccano tutto, ma con noi ci chiudiamo e non sentiamo nulla. Bomba, e visto che siamo sempre abituati a stare all'aperto, proseguiamo, standard chiuso, ma proseguiamo con Jolly Roger. After Dark. Bomba. We'll be right back. Torniamo in diretta sempre dal Brancaleone, venerdì 30 settembre, questo è Jolly Rogers, sono le 17:20 minuti, abbiamo iniziato da 20 minuti, fra un lusco e l'ambrusco ci siamo scordati di salutare la nostra amica Elena che questo venerdì non è in compagnia di Jolly Roger Crew, ma la salutiamo e chiaramente l'aspettiamo la settimana prossima. Nel compenso abbiamo recuperato Donna, una nostra amica e collega, e anche per lei la prima esperienza di Jolly Roger, speriamo che prima o poi ritorni. E detto questo, ripasso il mic al nostro amico Luca e al suo momento, il momento delle battute. Aristago, il cacola, il caccola, si pensa ad una soffiata. Come dicono le galline, se becchiamo domani. Come disse una candela all'amica, che brutta cera. Questo è il momento dell'improvvisazione, quindi questo silenzio è dovuto ai pensieri di Luca, che piano piano ci farà la sua ultima battuta e poi ci saluta e ritorniamo con la nostra amica Alice. Ciao Lugone, spero di vederti e fare una bella cena, io, te, Carlotta, Pietro, Federico e Chiara. A posto, la battuta non c'è andata, però noi proseguiamo così. One more time. We're gonna celebrate and dance so free. one more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got the feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate, e celebriamo la nostra amica Alice che è appena si è appena avvicinata al mic, e quindi direttamente passo il microfono alla nostra amica. Ciao a tutti, e vi voglio raccontare che domani c'è una sorpresa per domani, per l'attack delle bus, degli autobus. Vi voglio ringraziare che togliamo tutte le mascherine e evitare che tutti non ci prendiamo niente. Beh, ormai dritto o storto se lo siamo preso tutti, tranne ancora chi come me sta al microfono, e speriamo che capiti il più lontano possibile. Si parla di Covid, quindi, come diceva Alice, tana libera tutti, senza mascherine sui mezzi. E poi diciamo che sarebbe meglio il tutto che stiamo tutti insieme, stiamo bene e viviamo tutta la nostra vita insieme. Belle parole, e noi proseguiamo col primo pezzo scelto da Alice. Elisa Ligabue. Principio di magia fra gli ostacoli del cuore, mi si attacca volentieri fra una sera che non muore, è una notte da scartare come un pacco di Natale, c'è un principio di fa rumore camminare, dagli ostacoli del cuore. Quante cose che non sai di me, quante cose che non puoi sapere, quante cose da portare nel viaggio insieme, quante cose che non sai. Che non vuoi sapere, quante cose da buttare nel viaggio insieme. E ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone, questo è Jolly Roger. Tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E ora avevamo interrotto un attimo con il primo pezzo scelto da Alice. Per chi l'anno scorso ci ha ascoltato, deve sapere che Elisa è la cantante preferita di Alice. Quindi questo lo stavamo dicendo mentre stava passando il brano. Però detto questo, ora gli ripasso subito il mic che ci racconta alcune cosette direttamente lei. Allora, praticamente quest'estate noi abbiamo coltivato i cocomeri. Dove? E a scuola, che ho un orto, abbiamo un orto grande. Mitici, questi sono i progetti, quelli seri. E praticamente quest'estate non sono cresciuti i cocomeri, sono cresciuti solamente quest'inverno. Mo vediamo. E che fai, non se la famo una cocomerata a novembre, dicembre, con questi tempi, visto che il clima è impazzito? Ma io direi di sì, ma anche con sto caldo. Esattamente, E dai. Poi, detto questo, insomma, Alice ci vuole raccontare un'altra cosetta e fare gli ultimi saluti, così poi proseguiamo con il pezzo scelto da lei e proseguiamo con la puntata. Volevo salutare anche le ragazze del del gas. Il gas e Brancaleone. Aspetta un attimo, che cos'è il gas? Racconta un po' alla gente che non conosce cosa sia ancora il gas. Brancaleone riparte. E tu che fai? Verdure e frutta di stagione, uova da galline, felici latticini, carne, riso, pasta, farine, legumi e tanto tanto altro, tutto rigorosamente bio, nel rispetto del ciclo naturale della terra e a supporto dei piccoli produttori a chilometri zero. Se anche tu vuoi affacciarti alla nostra finestra, partecipa al nostro primo incontro della stagione, venerdì prossimo 30 settembre, cioè oggi, dalle 18.30 alle 19.30 in via Levanna 11. Insieme ci organizzeremo le attività per rendere il paesaggio ancora più bello. Per info e ordini iscrivici entro oggi a gasbrancaleone@gmail.com. Ti aspettiamo. Bomba! E detto questo, ringraziamo le nostre amiche e dedichiamo un pezzo che ha scelto direttamente Alice. Poi ritorniamo sempre qui in diretta dal Brancaleone. Questo è Jolly Roger. Una puntata molto ballereccia. Je veux-tu que je... E noi ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone, questo è sempre l'originale Jolly Roger. Detto questo, hanno parlato prima Luca, poco fa Alice che ci ha raccontato dell'esperienza dell'orto, e ora passiamo al nostro amico Matteo che ci racconterà, anzi ci darà una ricetta. Questa sera parlerà di una ricetta che diciamo inizia a essere un po' tipica vista la stagione. E noi passo subito il mic a Matteo e vediamo cosa ci racconta. Buonasera a tutti, io sono Matteo. La ricetta portata con la marmellata di fragole. Ottima, quindi una crostata di marmellata di fragole. I cadetti 100 grammi di panina. 125 grammi di burro, 100 grammi di zucchero, latte, marmellata di fragole. Perfetto, questi sono gli ingredienti. Ora andiamo dagli ingredienti alla preparazione, giusto? Metterete a tavolo la farina e lo zucchero, fate un buco del cetro e dete il burro, aspettate il latte e fate impastiamo e piantiamo bene per dare un vero compotto, un impasto compatto. Vedete la vedere la pasta faglia, una melata di uno tappo di arrotete, la melata di fragole, fate delle ricce, ora di da mettere dopo mettete al forno a 200 gradi per 40 minuti. Allora, una volta che sono stati al forno 40 minuti, una volta che è stata una sofferenza sta ricetta, perché il nostro amico Matteo è tanto bravo a dare ricette ma tanto non bravo a farle, quindi noi aspettiamo questa crostata di fragole. E intanto passiamo al primo pezzo scelto dal nostro amico, che è un pezzo che fa tante cose, un artista che ho conosciuto tramite lui, diciamolo, circa un annetto e mezzo fa. Un artista si chiama Blanco, lui tornava, Matteo ritornava da una vacanza estiva con i genitori e mi ha praticamente inondato YouTube con tutta la storia di Blanco. E ora, visto che abbiamo detto chi è, partiamo col pezzo scelto dal nostro amico. E questo è Jolly Roger. Io vorrei comprare come se fossi una bambola. Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina. Tutti i venerdì dalle 17 alle 18 dal Brancaleone. E noi salutiamo tutti gli amici e tutte le amiche che frequentano con lo spazio. Fatto senza più provare amore. Tutto quel che ci siamo detti senza più provare amore. Sentir più me stesso fino all'eccesso. Ti ho detto che non posso stare senza di te, che manderei tutto a fanculo senza di te. Senza di te è una nostalgia, yeah, perché sei come casa mia, yeah. Ti ho detto che non posso stare senza di te, che manderei tutto a fanculo senza di te. Senza di te è una nostalgia, yeah, perché sei come casa mia, yeah. che non torni, e si te ne fotti, che ti voglio qui, che mi affronti, e mi prendi a schiaffi, e lasci a parte l'orgoglio. Un po' di nostalgia ci prende, visto questo clima un po' così ventoso, si apre, si chiude, piove, non piove, ma noi iniziamo comunque quello che è il nostro weekend, e ora come consuetudine è il momento di Matteo dei suoi i pronostici. Fratello del Tappato, Inter Roma, Rocchetto. Alle 18 Inter Roma, abbiamo detto, questa è la prima partita. Vite l'Inter. Moro. E poi Milan, vite l'Empoli. Poi alle 25. Poi andiamo alle partite della domenica. La Tepentia, vite la Persia. Poi Napoli-Torino, vite Torino, poi Lecce Pregonera, quindi vite Pregonera. Perfetto, e questi sono i pronostici del nostro amico Matteo. E detto questo, mi raccomando, giocate se vincete, siamo sempre qua tutti i venerdì dalle 17 alle 18 e andiamo con un altro pezzo scelto dal nostro amico Matteo. Visto che si parla di gioco, calcio, noi giochiamo forte. E questo è il pezzo scelto da Matteo. L'avevamo detto che questa era una puntata ballereccia. Said a husband's work. E ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone e questo è sempre Jolly Roger. Ora il nostro amico Matteo vuole fare dei saluti e dopodiché proseguiamo la puntata. Ciao Nicola, ti ripeto! Un saluto al prof Nicola e un saluto al prof Ciliberto che fra le tante cose è venuto anche qui a salutarci. E ora l'altro pezzo scelto da Matteo, poi ritorniamo in diretta sempre dal Brancaleone. Ask for money and get advice. Sempre ballerecci. Get money twice. È un po' romantico. Dirty, but that chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Just wanna feel this moment. Ooh, I just wanna feel this moment. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now baby we can parlay, oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than Slick Rick the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shooter. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we could travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while the light is glowing, I'll be here. E questo è il mood di Jolly Roger. Ritorniamo in diretta questi ultimi 10 minuti. Salutiamo tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano in diretta, tutti gli amici e tutti gli amici che ci riascoltano tramite podcast. Salutiamo tutti gli amici e le amiche del canale di Telegram e dedichiamo un altro pezzo e poi proseguiamo con i saluti e i ringraziamenti. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

come penso che le stelle l'hanno messa alla rinfusa, la buttate Dio nel cielo. Sempre controvento. Messa in busta chiusa. Sempre contro. Scano d'estate, costa specie di preghiera. Chiedo la rivoluzione per distrugge sta galera. Qua non vedo più nessuno che cammina contro vento. Gli sta bene la condanna, gli hanno spento il sentimento. Non si parla più di niente dentro ai dischi e sui giornali. Gli ha spezzato in due le penne, gli ha comprato le vocali. Ma la storia fa vergogna, se fa nera come pece. E noi resistiamo. Carogna, fate il segno della croce. E s'addormono sereni, quattro giri di una chiave per far viaggi immaginari come dentro un'astronave. E so come le scimmiette segregate in quarantena, sordi ciechi, muti e vinti nella gabbia del sistema. Compagni cantautori, culo e camicia coi padroni, tutti al mare coi cappelli, sollerò i giovani belli. Ma era tanto tempo fa, se sono fatti trasporta dalla moda di quel tempo perché fischiettava il vento. Ma la storia è nata avanti, tra mille pagine segrete, ci ha schedati a tutti quanti, siamo cascati nella rete. Ma non stiamo zitti e buoni, se addormiamo a malapena, se giriamo e rigiriamo, c'è sta stretta sta catena. Siamo nati col sorriso, pesse fare in mezzo al mare, chi ce volte nei legati finirà per farse male. Io lo sento che la gente non la botte né per sempre. E sta rabbia che se inghiotte si farà più prepotente. E stanotte non m'addormo, ne preparerò all'azione e vi sveglierò domani quando canterà il cannone. Buon weekend a tutti e tutte, alla settimana prossima. Questo è Jolly Roger.